9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e mentre l'attenzione di tutti coloro che amano il cinema, io sono tra quelli naturalmente, come ogni anno di questo tempo va all'apertura della nuova versione del Festival di Venezia 2010 con grandi film molto attesi anche a questa versione, la trasposizione cinematografica del romanzo che ha venduto oltre 1,5 milioni di copie, che naturalmente sui numeri primi capite benissimo di che cosa sto parlando, il grande romanzo di Paolo Giordano, il giovane fisico che è diventato romanziere di successo fino a vincere lo Strega poi 2 anni fa, oppure la trasposizione della versione di Bane di Mordecai Richler, altra cosa che 10 anni fa fece sobbalzare tutti coloro che pensano che non escano grandi romanzi di volta in volta tali da rinverdire la grande tradizione delle opere. E anche il cinema è così, il cinema come la letteratura, come tutto ciò che si collega alla parte che mette la testa, il cuore, l'immaginazione, il fascino, l'evocazione, la capacità di riflettere, di dividere, di far assolutamente discutere, e questa è la grandezza del cinema. C'è un cinema di ristretti mezzi, c'è un cinema di medi mezzi, c'è un cinema di grandissimi mezzi, le grandi produzioni internazionali americane, gli effetti speciali, però insomma il cinema è un'arte strepitosamente collegata alla capacità umana di trasmettere, comunicare, riflettere, come ogni altra forma espressiva, e così va considerata. E quindi eventi come quelli di Venezia giustamente secondo me accentrano l'attenzione e fanno molto discutere, prendono parte nei palinsesti, diventano momenti di una proiezione anche di un'idea nazionale, perché poi il cinema è collegato a un'idea dell'Italia nel mondo. Il cinema ha reso con nomi di strepitosi artisti cinematografici, registi, produttori, sceneggiatori, realizzatori di costumi, di effetti speciali, nell'intera filiera del cinema l'Italia è stata ed è ancora un simbolo, per fortuna, di strepitosa qualità e di grande intraprendenza. E allora eventi come questi, oltre che per il merito dei film, per il tipo di registi, bisogna guardare con un'attenzione come è a tutti gli effetti un grande settore produttivo, un grande settore di mobilitazione di talenti, di risorse, di immagine nazionale, di cultura nazionale. La cultura nazionale non bisogna pronunciarla con la vecchia denominazione, come quando era, per così dire, un ambito dell'organizzazione della proiezione dell'immagine nazionale e della cultura ufficiale del paese nel mondo, no? Perché poi ai tempi del regime il grande balzo in avanti nel programmazione internazionale dei grandi festival del cinema di Venezia si dovette proprio a questo, alla capacità del regime di farne uno strumento di comunicazione. No, non in quel senso, però bisogna guardare al cinema con l'attenzione che merita, con l'attenzione di un settore le cui risorse di organizzazione di film, di produzione, di distribuzione commerciale in ogni singolo ambito del cinema hanno meritatamente, secondo me, necessariamente bisogno dell'attenzione come di un grande settore della produzione nazionale, non tanto per i numeri che vi girano. È chiaro che noi non stiamo parlando di qualche cosa che ha il paragone della metalmeccanica e dell'export manifatturiero sul totale della produzione italiana, però quello che è sicuro è che rispetto ai milioni di euro che girano in questo settore nel nostro paese, il ritorno, l'effetto, la pervasività delle manifestazioni che il cinema è in grado di determinare nella vita nostra di ogni giorno e nello scambio internazionale dell'immagine dell'Italia nel mondo, tutto questo rende quei denari enormemente più produttivi di quanto possano sembrare per il solo numero di addetti. E allora noi ci siamo permessi oggi, poiché tutti parleranno, come è giusto, con molto più tempo, molto più profondità e competenza di me, dei diversi film di cui si parla a Venezia, film strepitosi, ci sono anche nelle parti secondarie della rassegna grandissimi nomi di registi. Noi oggi facciamo semplicemente una riflessione con alcuni protagonisti del settore nel nostro paese per capire se questa delicata transizione che è in atto nel nostro paese non debba essere oggetto di una riflessione un pochino più accurata di quella che è stata fatta negli ultimi anni, perché questo settore ha bisogno di una grande cura. Ricordo a tutti che noi siamo reduci da anni di feroci polemiche. Queste feroci polemiche da che cosa sono dovute? Sono dovute dal fatto che negli ultimi anni il meccanismo, che era il meccanismo abbastanza al mainstream, insomma, del finanziamento del cinema nel nostro paese, cioè quello della quota parte del FUS, delle risorse pubbliche ministeriali, negli ultimi due anni è andato incontro a delle limitazioni molto forti, e siamo ora su un totale di risorse che è inferiore ai 500 milioni annuali per il FUS in quanto tale, che ricordo ingloba le risorse anche per le fondazioni lirico-sinfoniche, per i teatri eccetera eccetera. Al cinema siamo a poco più di 70 milioni. Ricorderete tutti che l'anno scorso, quando il programma pluriennale di tagli al FUS per il cinema arrivò in termini pluriennali a tagliare 60 milioni di euro, ci fu un'esplosione dell'intero settore, registi, attori, produttori, che dissero: in queste condizioni il taglio è così severo che, come dire, in un paio d'anni al cinema italiano non saremmo più in grado di produrre e anche di distribuire e anche di realizzare soprattutto poi pellicole di registi, attori, produttori italiani. E fu una polemica frontale, una polemica politica durissima. Bondi si batté per ottenere dal ministro Tremonti un reintegro, e a fianco di questo filone, che è un filone comunque in esaurimento, in forte riduzione, c'è una nuova politica di sostegno, una politica di credito fiscale, di tax shelter, di tax credit, che per l'ennesima volta adesso, mentre si parla di Vienna, ha bisogno con la finanziaria di fine anno di avere una conferma del suo orizzonte pluriennale, e di questo filone alternativo che serve a portare più capitali privati, a incoraggiarli non solo del settore ma soprattutto di altri settori che abbiano la convenienza di immagine, di ritorno economico, di interesse culturale, a mettere risorse da settori diversi in cui sono presenti nel cinema. Ecco, facciamo un pochino il punto con i protagonisti alcuni protagonisti del cinema italiano, per ricordare a tutti quanto fosse dura la polemica, nella quale devo dire io non mi medesimo, perché avete capito che sono sostenitore del no del pubblico, ma anche di una gradualità nel passaggio al privato, perché sennò si uccide il bambino, per così dire. Però per ricordare a tutti quanto dura fosse la polemica l'anno scorso sui tagli al FUS, mandiamo qualche minuto della versione tosta, d'attacco, garibaldina del basta col denaro pubblico sprecato per il cinema, e per di più un cinema ideologizzato, un cinema contro questo governo. Allora sentiamo le parole del ministro Renato Brunetta, che sono parole appunto un po' toste. È incerto culturame, mi piace usare questo termine che ha antiche accezioni, è incerto culturame parassitario, vissuto sempre solo di risorse pubbliche le vostre, e che sempre ha sputato sentenze contro il proprio paese. Quello che per intenderci si può vedere in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. Cosiddetti artisti o registi che hanno delle tabelline molto, degli score molto chiari nel loro curriculum, hanno ricevuto 30-40 milioni di euro nella loro carriera per fare i loro film, e quegli stessi film hanno incassato 3-4 mila euro. 30-40 milioni di euro ricevuti da tutti noi per produrre cultura, e ai botteghini hanno incassato 3.000 euro, 4.000 euro in tutta la loro vita, non per un film. E questi stessi autori, registi, nobili, con la faccetta sempre sofferente, ti spiegano che questa Italia fa schifo, che questa Italia non gli piace, che ne vorrebbero un'altra, salvo che loro non hanno mai lavorato per un'Italia migliore. Non hanno mai lavorato! E bene fai, Sandro, a chiudere quel rubinetto del FUS, e fai bene a chiuderlo, e più vai veloce vai e meglio è! I parassiti dei teatri lirici! I i finti orchestrati. Direi che possiamo sfumare, perché questa testimonianza è una testimonianza che dura molti minuti, come avrete capito è una manifestazione elettorale, i toni sono molto forti, quelli di un comizio, c'è poi un parossismo trionfale di applausi che salgono quando il ministro Brunetta evoca appunto questi pallidi, esangui, parassiti di Stato con i soldi del contribuente. Allora, io sono dell'idea che dibattiti di questo tipo, lo dico pur essendo amico di Renato Brunetta e apprezzando molto di quello che fa, fatti con questo tono non servono a una cipicchia di niente, proprio lo dico con grande sincerità, perché ripeto, ciò di cui vogliamo discutere oggi non è tanto di che cosa votano o non votano gli artisti, i produttori, i registi italiani. Il problema è come si fa a immaginare un percorso di transizione da un canale di finanziamento pubblico che è in esaurimento, perché la finanza pubblica è in queste condizioni, al di là del giudizio poi del colore politico e delle simpatie politiche, ha un canale prioritariamente sempre più privato, sempre più sanamente capace di contemperare la realizzazione di opere prime, opere a basso costo, opere che consentano al talento di emergere, opere poi di maggior impegno fino a grandissime produzioni, con incentivi, agevolazioni, con lo Stato che fa il contrario che mettere soldi pubblici magari buttati, ma invece che incentiva chi li ha a metterli, e però fa di questo settore un settore che deve avere l'importanza che merita nella produzione culturale del nostro paese. Quindi lo dico anche per instradare le telefonate ai nostri ascoltatori. Allora, gli ospiti, perché io ho parlato fin troppo come sempre all'inizio, abbiamo con noi Luigi Abete, che è presidente di Cinecittà Studios, oltre che presidente di BNL, ha la responsabilità, la bella responsabilità, lo voglio sottolineare, di avere portato a privatizzazione Cinecittà, e gli studios di Cinecittà sono uno dei pezzi fondamentali più importanti a questo attaccati del cinema italiano. Grazie a Luigi Abete, buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo Giampaolo Letta, che è amministratore delegato della Medusa Film, quindi stiamo parlando di una grande realtà della produzione e distribuzione cinematografica italiana, con molte molte decine di milioni di euro investiti ogni anno. Buongiorno e grazie a Giampaolo Letta. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Domenico Procacci, che è un produttore cinematografico, fondatore di Fandango, un'altra grande sigla della multimedialità italiana, con grandissimi registi che grazie a Fandango sono riusciti ad affermare il proprio nome in Italia e nel mondo. Grazie a Domenico Procacci. Buongiorno a tutti. E Riccardo Tozzi, che è il presidente della sezione produttori dell'ANICA, quindi della filiera, diciamo così, di tutte le imprese in tutte le diverse sezioni della cinematografia. Grazie a Riccardo Tozzi, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io comincerei se possibile da Riccardo Tozzi, proprio per consentirci una riflessione sui numeri innanzitutto, perché ancora poche settimane fa, prima della sospensione estiva per così dire, proprio Riccardo Tozzi rilanciava l'idea di una lotteria alla britannica, detta così sembra per i non addetti ai lavori un'idea un po' balzana. Insomma, la Gran Bretagna da anni attraverso il gioco di Stato ha aperto un canale che non è pubblico dai denari del contribuente, ma è pubblico solo perché il pubblico è garante della legalità dei giochi, per finanziare musei, arte, cultura, cinema, eccetera, eccetera. E ha proposto di aggiungere questo canale ha l'aggiunta della conferma del tax credit e del tax shelter. I numeri, Tozzi, intanto come stanno rispetto alle polemiche di un anno fa sul FUS? Ma intanto c'è da dire che le cose che ha detto il ministro Brunetta sono cose che alcuni di noi, fra cui io, dicevano negli anni 90, nel senso che, sia pure in quel modo un po' folcloristico che è proprio la nostra politica, diciamo, di questi tempi, quelle cose hanno un contenuto di realtà se riferite al passato, fra gli anni 80 e 90, in cui effettivamente il FUS è stato oggetto di sprechi e di comportamenti assolutamente negativi. Però la situazione è cambiata, direi che il cinema italiano è un interessante caso di studio, perché è un settore che si è autoriformato a partire dalla fine degli anni 90, con una specie di piccola rivoluzione culturale, con la ripresa di un rapporto forte fra autori e produttori, con la scelta di tornare al pubblico e di fare del pubblico l'elemento importante e vitale. I numeri riflettono questa cosa, perché il cinema italiano in Italia alla fine degli anni 90 si vendevano 80 milioni di biglietti e la quota di mercato del cinema italiano era del 12%, la stima a finire del 2010 di quest'anno ci parla di un mercato da 120 milioni di biglietti, in cui la quota italiana è sopra il 30%, quindi vuol dire che noi siamo passati da 10 a 35 milioni di biglietti. non solo, ma una quota di mercato superiore al 30 è nel mondo la seconda dopo quella francese. I francesi hanno un sistema di sostegno enorme, razionalissimo e programmatissimo, stabilizzato da anni, e stanno sul 35-36% di quota di mercato. Quindi la prima cosa da dire è che il quadro attuale è totalmente diverso da quello di cui parla il ministro Brunetta, cioè il cinema italiano è una realtà vitale, molto forte, ed è considerato anche a livello internazionale la cinematografia più vitale in Europa oggi. Quindi diciamo il nostro è una roba che ci siamo fatti da soli. E lei ha detto questa è autoriforma, non perché lo Stato ci ha tagliato e ci ha indotto, insomma, prima è partito questo processo. I fondi pubblici, potrei persino dire magari anche proprio perché stavano calando i fondi pubblici e ci siamo dovuti ingegnare. Su questo si è inserita una nostra pressione per avere, per sostituire diciamo, questo meccanismo che effettivamente è arcaico e superato, il finanziamento pubblico dei film ad opera di una commissione di Stato è una roba che non ha più senso oggi, stona semplicemente a dirla, no? La sostituzione di cui lei ha parlato con molta chiarezza e competenza, direi, anzi è stato un piacere sentirlo, perché in genere quando si parla di cinema si sentono dire delle cose incredibili in Italia, tipo quello che dice il ministro Brunetta per appunto, e di sostituire appunto i fondi pubblici calanti e inevitabilmente calanti con meccanismi di incentivazione fiscale. Questo che devono essere adesso essere rinnovati e che hanno cominciato a funzionare e funzionare molto bene. Accanto a questo però noi pensiamo che debba rimanere, questi diciamo sono meccanismi che accompagnano il mercato, no? Sì. Accanto a questo noi pensiamo che debbano rimanere dei meccanismi che lo integrino e lo bilancino il mercato e quindi delle forme di finanziamento per film che hanno caratteristiche particolari, caratteristiche artistiche o di innovazione particolari. Pensiamo che forse quei soldi non verranno, forse non dovranno più venire dallo Stato. La lotteria è un meccanismo che si sono inventati gli inglesi e che potrebbe essere una fonte di finanziamento in un volume insomma non enorme, proprio per questa funzione qua, per bilanciare, permettere di fare quei film che forse il mercato non consente di fare, ma che forse aiuterebbero in prospettiva anche il mercato, come la ricerca e l'innovazione aiutano il mercato. Questo è il senso diciamo di questa cosa un po' stravagante, ma che ha il precedente inglese che ha funzionato molto bene. Allora, io poi chiederò a Tozzi proprio di tornare sui numeri. Ora devo approfittare rapidissimamente di Procacci perché poi ci deve lasciare, perché c'è una proiezione appunto poco dopo le 30, le 9:35. Quindi, Procacci, lei, insomma, rispetto a quando sono più di 20 anni oramai, 20 anni buoni, più di 20 anni, che grazie alla sua Fandango... registi italiani escono per così dire dalla stima di ristretti circoli per essere poi con opere importanti conosciute in tutta Italia, tutto il mondo, sto parlando di Carlecri, Alese, Sorrentino, insomma stiamo parlando di Capuano, ecco. La mia domanda è, rispetto a quando è cominciato il suo progetto e rispetto alle polemiche di questi ultimi anni, rispetto a questa transizione di cui ci ha illustrato con speranza diciamo, i numeri Tozzi, lei è altrettanto convinto che ci siamo o bisogna immaginare qualche cosa di diverso? C'è troppa cattiva politica nel commentare poi ciò che il cinema fa, più che delle intenzioni vere del cinema. Com'è la sua esperienza da questo punto di vista? È abbastanza ottimista o no? No, io sono ottimista. Ce l'ho e condivido anche l'ottimismo di Riccardo Tozzi. Quando lei parla di cattiva politica, anche nell'osservare quello che succede nel cinema, nel commentarlo, se vogliamo, quella struttura di Brunetta si può inserire in questo discorso. Cioè, ora apprezzo anche lo sforzo di Riccardo di condividere qualcosa, ma insomma. Per essere gentile è un buon pezzo di cabaret con un buon senso del pubblico che appunto applaude, si diverte, ride, però per certi versi il ministro non sa cosa dice e il ministro della cultura che poi ha condiviso il contenuto dell'intervento di Brunetta mi preoccupa ancora di più. Questo si inserisce in una specie di campagna mediatica ai danni del nostro cinema, che va avanti da molti anni e che è molto facile, ed è fatta da giornali, riviste, giornalisti di destra, di sinistra, cioè uno di quei pochi casi in cui si riesce a mettere d'accordo tutti quando c'è da attaccare il cinema italiano, che poi invece fuori d'Italia sta avendo un momento di grande fortuna e di grande apprezzamento. Posso interromperla solo per un secondo per dire, io penso che molte volte i politici confondano, per così dire, cioè immagino che uno dei titoli che ci sarà a Venezia, di cui discuteremo, vedremo, lo applaudirò senza dubbio perché mi piace chi lo fa e come l'ha fatto di sicuro, cioè qualunquamente, no? Accetto la qualunque per capirci, se la politica crede di doversi difendere da questo con controrepliche, con comizianti, io credo che sbagli un po' a capire che cos'è il cinema. Questa è la mia idea, però è la mia idea, mi scusi, la volevo interrompere solo per dire questo, perché avendo il mio pubblico devo anche spiegare perché ho cominciato con quelle cose così dure invece che con voi. Prego Procacci. Comunque, vi ripeto, secondo me dal punto di vista artistico il nostro cinema gode di ottima salute, e quello che si sta facendo per creare intorno all'industria cinematografica un sistema che non poggi sul finanziamento pubblico ma su altre risorse è ciò che vogliamo tutti e vogliamo tutti da tempo, e sta succedendo, è una cosa che sta crescendo. Questa transizione di cui lei parla va fatta innanzitutto gradualmente, ma va fatta anche con amore, quello di cui parliamo, cioè, non una forma di, insomma, quando va bene di tolleranza è quasi sempre di fastidio per questo settore. Non si può chiedere al cinema italiano di poggiarsi sul mercato e non sui fondi pubblici, che sono sempre di meno, e che è vero che sono stati spesso male adoperati nel passato, ma non nel passato recente, non penso che lì ci siano stati grandi miglioramenti nell'utilizzo dei fondi, però questo mercato bisogna crearlo e ci vuole un'intenzione per farlo. Cioè, in Italia purtroppo ci sono dei poteri forti, molto forti, che non possono essere toccati, perché dal nostro cinema ci sono delle realtà che guadagnano, ma anche dalla pirateria c'è chi guadagna, che sono i gestori telefonici per esempio. Ma Riccardo può elencare 10 diverse forme di finanziamento possibile per il nostro cinema. C'era un'ipotesi di deviare una parte dell'IVA dei biglietti del cinema sul fondo, diciamo, insomma, su un fondo che possa aiutare le opere prime e seconde. C'è un discorso anche proprio che si chiama, che viene definito tassa di scopo, che possa appunto andare a drenare dei fondi da chi ha i risultati economici dallo sfruttamento dei contenuti che noi produciamo. Poi ci sono delle leggi che non vengono poi rispettate, che magari ci sono già, l'obbligo di programmare il nostro cinema in televisione, accettare un obbligo di investimento da parte delle, insomma c'è tanta roba, ma ci vuole un'intenzione politica. Quindi lei dice la transizione c'è, ma l'intenzione politica non è ancora abbastanza focalizzata, chiara e forte. Le posso fare una domanda, poi la lascio andare? Rispetto a come è organizzata la distribuzione cinematografica italiana, molti dicono per esempio, ecco, al di là poi delle risorse pubbliche o private, c'è un problema di distribuzione, perché poi c'è un collo di bottiglia. Un collo di bottiglia, le ha parlato di grandi interessi, forti interessi. Le chiedo, per come funziona la distribuzione cinematografica nelle sale, c'è una prevalenza, come ovvio in ogni organizzazione di interesse, ma è così forte di alcuni gruppi tali da giustificare chi dice che poi c'è un collo di bottiglia nella distribuzione e quindi non si passa, soprattutto per opere un po' più discusse e con meno mezzi magari, oppure è un'accusa un po' falsa e ingiustificata, visto poi in realtà i concreti risultati che il mercato ha offerto in questi anni, anche nell'offerta del pubblico, i numeri che faceva prima Tozzi? Lei cosa pensa? Ma io ho fatto tanti film e non ne ho nessuno che non sia uscito nelle sale, quindi non posso lamentarmi che non si riesca a uscire in sala con i film. A volte non è facile, quasi sempre questi accordi bisogna farli prima, è un mercato nel quale è ovvio che le due distribuzioni che sono legate ai due broadcaster, due principali broadcaster di questo paese, hanno un peso decisamente maggiore degli altri distributori, quindi anche è un mercato che potrebbe essere forse regolamentato diversamente, però che sia un mercato inaccessibile non me la sento di dirlo. Ok, allora insomma la politica impari a capire un po' meglio come trattare questa cosa. Ultimo pronostico, per quanto il pronostico ovviamente non possa che riguardare i propri figli, ma da questa edizione che pronostico fa del festival? Io ho un film lì, nella versione di Carlo Mazzacurati, come film italiani, e un altro film, un film italo-canadese, che è la versione di Barney di cui lei parlava prima. Il mio approccio quando si va a un festival è che essere al festival, e tanto più quando si è in concorso, è già un ottimo risultato. Quindi se poi arrivano dei premi, come è successo con Gomorra, come è successo altre volte, sono molto contento, ma non è una cosa sulla quale si possono fare né previsioni né conti, né pronostici. Dipende da così tante cose. Ed eccoci tornati in studio all'inaugurazione del Festival di Venezia di quest'anno del cinema. Una riflessione intorno ad alcuni nodi del finanziamento del cinema italiano nel regime di transizione dal sostegno pubblico a quello con gli incentivi, tax credit, tax shelter, e che cos'altro sia giusto. Io penso che sia giusto fare, perché in questa transizione dal pubblico, che non doveva e non poteva più finanziare, al privato, si dia però la giusta attenzione a un settore che è non solo interessi economici, ma è produzione artistica, culturale e dibattito, che divide, che fa discutere, ma che è anche legato all'immagine d'Italia nel mondo, con successo, all'immagine d'Italia capace di far sognare anche quando non era prima nelle graduatorie mondiali della manifattura. Per questo secondo me c'è bisogno di un'attenzione e di una passione particolare. Sentiamo due telefonate e poi i nostri ospiti. Sentiamo innanzitutto Orlando da Mantova, cosa pensa di questa transizione tra il pubblico e il privato da incentivare il finanziamento per il cinema. Ma Orlando, qual è, che pensi? Per dire che la questione, ad esempio, delle lotterie, la maggior parte del paese, io sono uno che lavora nell'industria cinematografica, la maggior parte dei paesi hanno già introdotto la percentuale delle lotterie che vanno destinate esclusivamente al sistema, cioè all'indotto cinematografico. Credo, cioè, che noi stiamo un po' pagando gli errori del passato, che è normale, ma che ci sia anche una sorta di celebrazione di tutto ciò che è venuto negli anni 50, negli anni 60. Bisogna fare un upgrade, secondo me. Grazie Orlando. Quindi l'idea da cui siamo partiti, quella illustrata da Riccardo Tozzi, il presidente dell'Associazione Produttori, Annika, come vedete guadagna un primo sostenitore con il nostro ascoltatore, poi Alessio da Pavia. Alessio invece cosa pensa? Sì, no, io sono d'accordissimo, anche perché su quello che diceva lei, nel senso, io sono contro tutti i tipi di finanziamento pubblico ai settori dati decisi da commissioni, perché secondo me sono distorsivi e poi la politica ci mette sempre lo zampino, e quindi sono favorevolissimo a, se viene considerato, come credo, il settore strategico, a agevolazioni fiscali, diminuzione dell'IVA, qualsiasi cosa che lo Stato può fare per agevolare il settore senza distorcerlo. E poi velocissimamente posso fare una critica personale: abbiamo un ministro della cultura che secondo me non è all'altezza. Qui ce l'abbiamo con... ma noi non abbiamo sentito Bondi, io ricordo tutti. Bondi era evocato nelle parole di Brunetta come seduto in prima fila, come colui che girava la chiavetta, la chiavetta, la chiavetta. Poi Bondi si è battuto però perché la chiavetta girasse un po' meno, a dire la verità. Quindi a onor del vero, lo dico come giornalista, a prescindere da quello che voi possiate pensare a favore o contro questo o quel componente di questo governo, e questo governo in particolare, in totale. Allora, Luigi Abete. A Luigi Abete tocca chiedere una riflessione generale su almeno tre versanti. Primo, perché appunto lui ha privatizzato gli studi di Cinecittà, di cui presta presidente, quindi ha un amore, una passione e un'esperienza diretta di transizione tra il pubblico e il privato proprio nel settore, in un'eccellenza del settore come erano gli studi di Cinecittà. Secondo, poi è presidente di una banca, è presidente di BNL, Allora, qui c'è una questione anche del credito specializzato per il cinema, di come giudicare e di come pensare di cosa si possa fare di più per finanziare, sia pur come fa il banchiere, quindi senza buttare i denari dalla finestra, ma con un'aspettativa di ritorno. Terzo, poi, è un grande protagonista da sempre dell'associazionismo di Confindustria, e quindi in questo una riflessione generale: lui ha gli strumenti per farla, sia del credito che l'impresa privata, che per l'esperienza di transizione, per dirci l'amore che va portato al cinema italiana rispetto a questo delicato scontro che la politica ha avuto in questi anni su come finanziarlo, come si può aiutarla questa politica, al di fuori della polemica, a fare qualcosa di più e di meglio, perché il cinema non si senta scoraggiato e soprattutto abbandonato per questioni politiche, più per il contenuto delle opere cinematografiche che per l'industria cinematografica in quanto tale. Io tenderei a distinguere. Abete, che pensa? Ma io penso che il passo avanti fatto negli ultimi anni è molto importante. Il dibattito che si ripete purtroppo in momenti elettorali o diciamo in modo qualunquistico sulla tematica degli anni 80 e 90 e sul modo perverso con cui lo Stato finanziava il cinema è ormai parte del passato. Riprenderlo significa soltanto confondere le acque, rendere attuali problemi che non sono più attuali e quindi allontanare la soluzione dei problemi veri di oggi. Il passo avanti è stato un passo abbastanza condiviso dal sistema politico, perché le nuove normative sulla fiscalità a favore dell'impresa cinematografica e del prodotto cinematografico sono proprie sia del governo di centrodestra che del governo di centrosinistra, sono nate in uno spirito inusuale, abbastanza bipartita. Il problema che noi abbiamo oggi di fronte è che questa transizione è troppo lenta e troppo incerta. Il fatto che oggi si stia parlando di rinnovare per il prossimo futuro delle norme che sono state fatte legge dello Stato italiano nell'ultimo triennio e che hanno cominciato a funzionare soltanto negli ultimi mesi, di fatto depotenzia moltissimo la funzionalità delle norme. Quindi noi dovremmo assolutamente far diventare definitiva e non più temporanea la nuova normativa. Questa è una responsabilità ovviamente dei governi e dei parlamenti. Bisogna finalizzare queste nuove norme in modo tale che siano applicabili su tutta la gamma dell'offerta normativa. Oggi alcune funzionano, altre ancora non funzionano, e bisogna tramite anche questa maggiore attenzione rafforzare ulteriormente l'offerta delle imprese cinematografiche. 20 anni fa un produttore cinematografico lavorava come un piccolo imprenditore edile, faceva un'impresa per fare un prodotto, il prodotto aveva un risultato positivo o negativo che esso fosse, l'impresa veniva chiusa e ne veniva aperta una nuova, quindi non c'era nessun accumulo di esperienze, nessuna capitalizzazione, nessun know-how consolidato. Negli ultimi 10 anni questo processo si è molto modificato, esistono oggi almeno una decina di player, quindi di giocatori che sono organizzati sotto forma di impresa, e questo aiuta anche il sistema finanziario a fare il proprio mestiere, perché consente di valutare non solo il progetto ma anche il proponente del progetto, la struttura finanziaria, e quindi riduce i rischi di minori successi rispetto alla efficacia del credito effettuato. Quindi noi stiamo sulla strada giusta. Penso che il vero problema qui, come in tanti casi nella nostra evoluzione, chiamiamola normativa e culturale, sul piano economico, che noi siamo troppo lenti e facciamo delle norme troppo legate alla congiuntura. Se si fa un passo avanti importante in questa direzione, io penso che il tema di riprendere i dibattiti su cui faceva prima le proprie battute il ministro Brunetta, faccia parte veramente da altre storie. C'è poi un secondo tema che abbiamo di fronte e che dobbiamo ovviamente universalizzare di più il nostro mercato. Abbiamo una forte presenza di produzioni italiane, abbiamo purtroppo oggi una minore capacità di attrazione in Italia di produttori esteri che vengono a produrre qui da noi. In questo senso anche sarà fatta una norma ad hoc, e questo a me interessa come Cinecittà Studios, essendo uno dei principali fornitori di servizi al mondo del cinema, però accanto a questo aspetto, chiamiamolo fiscale, occorre una normativa più generale che attragga anche questo tipo di attività. Solo negli ultimi mesi è passata una norma per cui l'IVA su produzioni internazionali fatte in Italia e poi ovviamente diffuse in tutto il mondo viene considerata in sospensione, quindi non viene più pagata, cosa che è ovvia perché noi questo principio lo applichiamo ad esempio a tutte le importazioni di semilavorati che poi vengono diventano oggetto di attività in Italia e vengono riesportati. Per far sì che questo principio si applicasse da attività materiali ad attività immateriali come il prodotto cinematografico ci sono voluti decenni, eppure è un principio, come dire, lapalissiano, autoevidente, elementare. Quindi siamo lenti nella transizione, dice il presidente Abeto. Allora eccoci tornati in studio, a questo punto bisogna che ci interroghiamo, sentiamo di capire un po' meglio, perché Tozzi all'inizio, Riccardo Tozzi, ci ha ricordato come equalmente il cinema italiano, quindi grazie anche alla qualità delle sue produzioni in questi anni, è riuscito ad autotutelarsi, per così dire, come quota di mercato sul totale di ciò che viene visto e distribuito nelle nostre sali, quasi come l'ipertutelato fra cinema francese. Voi sapete che in Francia c'è una forte eccezione culturale, si chiama così in termini tecnici, per cui lo Stato disciplina molto pesantemente tutto ciò che è prodotto culturalmente, sia radiofonia, televisione, cinema, tutto ciò che è francese. Eppure ci siamo quasi avvicinati, diceva Tozzi. Detto tutto questo, però, la domanda per Giampaolo Letta, oltre alle considerazioni che vorrà fare intorno anche lui a questo regime di transizione tra il pubblico e il privato, visto dal punto di vista di Medusa è un grandissimo nome nella produzione e nella distribuzione del nostro paese. E con la domanda che faccio è un po' questa qua. C'è chi pensa che poi alla fine il tax credit, tax shelter, gli strumenti di incentivo fiscale, che ricordo a chi è in ascolto, io ho solo i dati del primo quadrimestre, ma nel primo quadrimestre erano arrivati al Ministero richieste comunque interessanti, erano stati autorizzati quasi 7 milioni di euro, quindi per essere un regime all'inizio, nel primo quadrimestre si può pensare già di un sistema che al primo anno arriva quasi a coprire 7x4, 28, non voglio dire la metà dei 70 milioni pubblici che ogni anno in questi ultimi anni venivano destinati, poiché si stanno esaurendo le risorse al finanziamento pubblico, però comunque, come vedete, un strumento incoraggiante. Ma molti dicono, Letta, in questo caso col tax credit è inevitabile che si dà lo strumento per incentivare fiscalmente, ma lo si dà soprattutto a chi poi investe in produzione di un certo rilevo, a chi è certo per il nome del regista, del ritorno e del successo, a chi è certo magari per il gruppo che interviene a produrre, che insomma ci sarà già un elevato sostegno, ai cui profitti magari associarsi. È un po' più difficile immaginare che questo sistema invece possa far realizzare le opere prime e le opere seconde, a cui a fine giugno al Ministero risultavano pendenti in quest'anno 33 domande di finanziamento per fini di interesse culturali, tra cui i nuovi film previsti per Olmi, Montaldo, Ponzi, e 49 richieste di sostegno opere prime e seconde. Ecco, chi ragiona così, Letta, e dice il mercato da solo non consentirà poi di fare opere prime o a nomi emergenti, secondo lei ha ragione o ha torto? No, a mio giudizio ha torto. Buongiorno a tutti, innanzitutto se posso fare una piccola premessa, nella esposizione iniziale molto puntuale e precisa, di cui condivido tutto, compresi vari giudizi e valutazioni, manca a mio giudizio una piccola puntualizzazione, ossia in mettere a fuoco la reale proporzione tra intervento pubblico e intervento privato, perché altrimenti non vorrei che poi i radioascoltatori percepissero che il cinema è stato o è ancora un settore dove si può fare cinema, si può produrre solo con l'intervento dello Stato. In realtà non è così. Se guardiamo i numeri, negli ultimi 5-6 anni, per avere quindi un orizzonte temporale sufficientemente ampio, in Italia si producono circa tra gli 80 e i 100 film italiani all'anno. Di questi, circa 20-22 all'anno sono prodotti con un contributo o un finanziamento statale, quindi meno del 20%. Gli investimenti ogni anno sul cinema italiano, quindi in produzioni di cinema italiano, ammontano a circa 200 milioni di euro, anzi qualcosa di più anche. Tra questi 220-230 milioni di euro, solo 20-30 arrivano dallo Stato, quindi è giusto parlare di periodo di transizione, ma non esattamente per dire che si passa da un finanziamento pubblico a un finanziamento privato. Quindi periodo di transizione più correttamente va definito verso la fine o quasi del finanziamento pubblico per la quota residua. Infatti, periodo di transizione è poi una parola esatta che io condivido sotto due aspetti. Uno editoriale, che ricordava prima Riccardo Tozzi, cioè di una rinascita del cinema italiano negli ultimi 6, 7, 8 anni, con un riavvicinamento del pubblico al cinema italiano e agli autori italiani, e contestualmente un riavvicinamento degli autori italiani verso il pubblico, cosa che magari negli anni 80 e all'inizio degli anni 90 si era un po' perso di vista. E sotto il profilo economico, produttivo, se vogliamo industriale, comunque che riguarda il mondo delle imprese che fanno cinema, è iniziato ed è in corso un vero e proprio periodo di transizione. Ricordava prima Luigi Abete, i soggetti, i produttori, prima erano veri e propri artigiani, passatemi il termine, ma nell'accezione nobile chiaramente della parola. Oggi ci sono imprese, ci sono industrie vere e proprie, così come anche gli strumenti. È un'industria oggi che occupa più di 150.000 addetti, che ha un giro d'affari globale tra incassi al cinema, quindi al botteghino, commercializzazione dei diritti sulle varie piattaforme, dalle televisioni a pagamento generaliste all'home video, dalla investimenti pubblicitari di più di 1,5 miliardi di euro all'anno, con un gettito dello Stato, per le casse dello Stato, non indifferente, di diversi centinaia di milioni l'anno. E qui veniamo sull'argomento riforme, incentivi fiscali, periodo di transizione, passaggio da un intervento pubblico di un certo tipo ad un altro. Io personalmente sono convinto che la strada intrapresa ormai da qualche anno, quindi di uscita graduale, perché ricordiamo che questa uscita dal cosiddetto assistenzialismo di Stato, che tanti danni ha provocato, non farei comunque di tutto un erbo un fascio, perché in mezzo a tanti disastri ci sono stati anche tanti film importanti che sono stati prodotti. È iniziato, dicevo, questo percorso già nel 2004-2005, uscendo da un assistenzialismo a volte cieco e mosso troppe volte da interessi politici verso il mercato, verso quindi automatismi e criteri di selezione diversi. Personalmente credo che lo Stato non debba finanziare opere di autori affermati, o comunque opere cinematografiche che possono e devono trovare le proprie risorse sul mercato. Qualora non le trovassero, vuol dire che purtroppo, mi spiace dirlo, ma quel progetto non può essere fatto, perché giusto o sbagliata che siano le valutazioni dei produttori, si pensa che non abbia mercato. Quindi intervento dello Stato limitato alle opere prime e seconde, perché a mio giudizio credo sia giusto che lo Stato incentivi, finanzi, contribuisca alla nascita, allo scoprire nuovi talenti, nuovi registi e anche nuove maestranze tecniche che possono lavorare su questo tipo di progetti, e invece pigiare l'acceleratore su criteri automatici, incentivanti. Innanzitutto misure tipo il tax credit, il tax shelter, che hanno già prodotto risultati estremamente positivi, non solo per le imprese cinematografiche e quindi per i benefici di cui possono godere le imprese che operano nel settore, ma e soprattutto per l'attrazione di investimenti da parte di terzi soggetti, imprese, banche, soggetti che hanno interesse ad investire nel cinema, e quindi far affluire risorse fresche, né pubbliche né private, nel senso di legate al settore cinematografico. Io posso portare un esempio: abbiamo nella produzione del nuovo film di Paolo Sorrentino, che sta girando proprio in questi giorni in Irlanda e poi si sposterà in America, e che vede un grande progetto internazionale, che vede Sean Penn, il premio Oscar Sean Penn e Francis McDormand come protagonisti, è una coproduzione internazionale che vede Medusa, la Key Red e la Indigo Film, sono tre società italiane, società francesi, società irlandesi, e abbiamo per la prima volta coinvolto nella produzione del film e quindi nel finanziamento del progetto una grande banca, che è Banca Intesa, che utilizzando lo strumento degli incentivi fiscali per imprese non del settore e mostrando un interesse e una passione per il cinema, ha deciso di puntare, di investire su questo progetto. Brevemente, sono d'accordo con Luigi Abete quando parla di transizione lenta. Noi abbiamo bisogno che la politica individui gli strumenti, la strada, ma che la macchina poi normativa subisca un'accelerazione. La normativa sul tax credit, che ormai di 3 anni e mezzo fa ha avuto una gestazione lunghissima, i risultati, le prime applicazioni si sono avute nell'ultimo anno e mezzo, quasi due. Per quanto riguarda gli interventi degli esterni, quindi dei terzi non facenti parte del settore, addirittura la normativa è entrata in vigore 6 mesi fa. Troppo poco per pianificare investimenti e per impegnarsi in un nuovo settore. È per questo che dico che secondo me tutti coloro che come me sono per l'inevitabilità dell'uscita dello Stato, se non per piccole cose, per le prime e seconde opere, ma piccole cose rispetto al totale delle risorse del settore, non può che battersi però perché questa certezza del periodo transitorio venga confermata, soprattutto perché le imprese possano iniziare, le imprese della filiera, a chiedere alle imprese che non sono della filiera di iniziare a pensare di mettere risorse nella filiera, cosa che è roba degli ultimi 3-4 mesi, quindi non c'è ancora un film che gira realizzato grazie a questo. E allora noi che vogliamo ridurre lo Stato dobbiamo batterci per questo, perché le transizioni siano più rapide, con certezza alle imprese, perché questa è un'impresa, è un settore importante, come avrete visto. Allora io non mi resta che ringraziare Luigi Abete, Giampaolo Letta, Domenico Procacci e Riccardo Tozzi per questo ragionamento in giorno di apertura. Stasera c'è la festa con Napolitano che interviene a Venezia, un po' singolare, non abbiamo parlato dei film, abbiamo parlato dell'importanza di questo settore produttivo, e con un settore in cui lo Stato si deve un po' levare di torno rapidamente, ma facendolo bene, non facendolo solo con polemiche, perché altrimenti, non facendolo bene, chi fa opere si sente discriminato politicamente, e questo io credo che sia un errore nei confronti di qualunque tipo di opera culturale e artistica. Secondo, non si mettono le imprese in condizione davvero di finanziare questo cinema, i cui numeri però sono messi un po' meglio di quello che alcune polemiche potrebbero far sembrare. Buona Festival di Venezia a tutti coloro che hanno candidato e soprattutto a noi che ci godiamo il cinema discutendone. L'appuntamento è a domani, grazie regia Filippo Aureggi e redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al giornale radio.